Franco, ora, ora, Franco. Schivi di boppi. Ora, ora, ora, ora, Schivi di boppi, Forza Napoli. Ciao Gaffi, buon pomeriggio. Asso, buon pomeriggio, sero che buonanotte. Cos'è Gaffi, non ho sentito. Ha giunto, no che buonanotte, buon pomeriggio. Non fa nessuno, non lo so, boh. Poco fa stavo provando un'altra radio ma non c'era nessuno. Poi stavo guardando quella Baufen o cosa è, e niente, boh, non risolvo. No. Ascolta già, nella Baufen hai la tastiera? Sì. Ok. Nella tastiera fai 446. Adesso lo scrivo a vedere. Fai 446 e 100. 446 e 100. Ok. Dimmi quando ce l'hai. Allora, 446 mi hai detto. 446.100. 446.100. Aspetta che c'è, se ti pisci del lucchetto non devo gavare. Vediamo letta. Beh, già fatto. Già, trova 446.100. Ho detto 444.100. No, ti ho detto 446.100. Devi fare 446.100. Hai capito? 446.10. Allora, aspetta, aspetta. Non guardare la portante. Non guardare, chiudi. Aspetta, ti chiamo io e tu mi rispondi, ok? Ci sei già. Ma non mi ascolti nel PRM? No, Gavi, no, non ti sento. Mi esce il segnale, ma non ti sento. Aspetta che metto un po' di potenza, aspetta. Cioè, non mi ascolti tu di lì? No, nel Baufen non ti sento, Gavi. È un bel strano, è un bel strano. Guarda, ti sto dando il colpo di portante. Guarda a vedere. Cioè, sta andando con 50 watt, è impossibile. Io ti ascolto, Fondo scala anche, sei un segnale pieno. Ma con il baracchino? No, con un'altra radio, non c'entra niente col baracchino, devi sollevare il volume già. Sollevato, mi aspetta che la riprovo. Va importante, solleva tutto il volume. No, già, sei ducato qualche cosa anch'io, eh. No, c'è qualcuno. Ti sei spostato di banda. Guarda che sei a 446, non sei a 100, sei più in su. No. Aspetta un attimino, no che si prende a che cosa di infagliato già. Lo squerci l'ho messo a zero. Sì, ho capito già, però tu devi prendere, sì, 4, 4, 6 e 100. Allora, in pratica tu a me mi dovresti, io ti dovrei copiare, tu mi dovresti copiare a fondo scala, capito? Tu mi dovresti copiare non a fondo scala, no, di più. Cioè, io daggi di fascia alla radio. No, non la capisco io questa radio, così è. Cioè, è impossibile, Franco mi copia dentro casa, io con mezzo watt e Franco mi copia dentro casa, con l'antennino. No, non so cosa dirti, Gavi, sono con quattro dini, leggendo il manualino, guardando il menu, il coso, no, non risolvo, non riesco a farla andare. Riesco solo a farla andare in radio normale FM, ma è là sì, no, non risolvo. Allora, spegni qua la radio un attimino. Spenta. Ascolta già, mandami il link di qua, no, te l'ho mandato io. Però devi prendere, devi ascoltarmi, Adesso io prendo e faccio un po' di coso, però devi ascoltarmi già. Gappa, gappa. Allora, spegni la radio. Spegni. Ok, accendi la radio. No, parlami al baracchino, parlami 27. No, non nella radio, parlami nel baracchino, nel 48 parlami. Assurdo, mi stai entrando, cioè stai entrando nella 27 MHz, spegni quella radio. Senta. Cioè, tu stai andando in trasmissione e stai entrando in 27 MHz, assurdo. Boh, allora sono io che quando schiaccio va importante la radiolina. Che microfono sto... Ma tu schiacci tipo walkie-talkie già? Schiaccio cose del walkie-talkie. Malato, malato, stai entrando nell'antenna della 27. Adesso l'hai riaccesa. Allora, il brand is wide, ciò acceso. No, no, no, no, già. Aspetta che mi guardo le istruzioni di quella radio, eh. Dammi un pochino di tempo e me le guardo, dai, sentiamo dopo. Ok, gappa. A che se no non ne belli compresa, Tu sei in uniform, sarà bravo. Tu sei in USB con quella radio. Non lo so perché sto provando di capire, ma non riesco a farla entrare in conversazione. Tu a me mi devi copiare, con se io esco con un decimo di milliwatt, tu a me mi devi copiare, proprio ti devo rompere la radio, capito? Ho l'antenna esterna, poi è molto alta, poi sto uscendo con un po' di watt, quindi già con 5 watt io devo farti un fondoscala anche distorto, mi segui? Quindi c'è qualche problema, aspetta un attimino, fammi vedere un attimino il manuale di quella radio. Guarda un po' come ti arrivo. Lascia così, non toccare niente. Quindi ha già fatto un travaglio come te si tocca. Sì, quasi 9:30. Oh yes. Posso aumentare la radio? No, io ti direi di abbassare l'amplificazione. Aspetta, eh. Allora, adesso l'abbasso, dimmi di là quando posso, quando è bassa, eh. Ecco qua, sto abbassando sempre, sto abbassando, ecco qua, guarda un po'. Ancora, oi. Guarda, più di così è un casino. Faccia un baldunuta. Non ha cambiato niente. Oi. No, non ha cambiato proprio niente. Allora, andiamo col mic gain inserito del Lincoln. Andiamo uso locale, vediamo un po' se va meglio. Così appena appena più bassa. Appena appena più bassa. Secondo me questa modifica mai nessuno l'ha fatta, eh? Questa modifica non l'ha mai fatta nessuno. E vabbè, dai. Va bene, vuol dire a te ha reso, visto? Sì, ma hai qualche radio accesa? C'è Nicolas col telefonino in cucina. E ho una sorta di QRM. Dai, quando parli tu c'è il QRM. E adesso guarda un pochino. No, adesso di meno. E ma ho il mic attaccato alla bocca. Sì. Comunque, cosa mi dici? Va bene? È buona? È buonissima, va bene. Cavolo, non ti posso dire il contrario. Sì. Questo è il tuo Lincoln, eh? Questo è il Lincoln che mi hai regalato tu e... l'ho modificato, mi ho fatto due cose, sono andato, questa cosa qua agisce solo in FM però, eh. Solo in FM e va bene, ho cambiato un diodo e va bene così, dai. Io avevo capito, l'avevo fatto la Lincoln. No, il Lincoln, questo qua è il Lincoln che mi hai regalato tu. Ho cambiato un diodo, un micro componente e ho fatto due calcoli e l'ho messo un pochino più piccolo. Guarda cosa ha combinato. No, guarda, non avrei mai pensato era quello. Sì, ti mando la foto. Sto usando il... addirittura senza microfono amplificato, solo col gelato normale, PTT manuale gelato, buh. Non sto utilizzando altro, non sto utilizzando altro. PTT manuale e gelato, buh, finito. Ma veramente, non già lo sai, non ho niente da nasconderti. Brecco, registrato, va bene, ma solo dove va bene, che non mi sono accorto neanche che era, penso che era l'HF, figurati. Andare, vabbù, avanti il brecco. Ciao Tino e ciao Davino, è la prima volta che utilizzo questa radio in FM, ditemi come sta uscendo. Ciao Robè, allora, e come sta uscendo? Bene, sta uscendo bene. Va bene la modulazione del TS2000, mai utilizzato in FM, la prima volta che lo uso. Per me va bene, senti un po' a Galvino. Uì, ciao Roberto, alla grande, buonasera. Una telefonata a dirti una bugia e una telefonata amplificata, va benissimo. Queste sono le modifiche che mi hai visto facendo domenica a Lincoln. Questo qua è il presidente Lincoln, solo col gelato Shure e una portante e un PTT manuale. Dimmi un po' come mi occupi. Perfetto, una telefonata, nessuna imperfezione. Infatti ho detto, cavolo, una bellissima radio. Anche Tino non scherza. Che cosa stai utilizzando tu invece, Tino? Io un Midron Alan 48 con microfono MVP5, però con la modifica. Tu sei un po' più ricco di acuti, un pochettino meno naturale della sua, però ti ascolto bene, nessun problema. Mentre quella di Gavino è perfetta, proprio una modulazione ricca di tonalità, perfetta. Perché non abbiamo fatto l'amore noi. Vai, che è un bugiardo, che mi denigri la radio, maledetto. Robe, avanti scendi. Che cosa? Cosa si trattende? Non lo so, io con questa radio non conosco i segnali, nulla. Guarda, adesso ti faccio sentire un'altra radio, aspetta, grazie. Con un 450, Robe. Oh, ci avevo pensato, poi ho detto, buh, non lo so, ha detto così. No, aspetta che c'è un'altra. Tu considera che io sono con il presidente Lincoln, Robe, quello che stavo... stavo facendo quelle saldature domenica e poi oggi ho fatto un paio di calcoli. La verità, un amico, un tecnico mi ha detto prova questo diodo e poi mi dirai come va in radiofrequenza. Ho detto vabbè, lo provo, ma le va andando, butto la radio, però mi state confermando che è buona, eh? Non ho neanche il microfono amplificato, Robè, ho usato una scatola di... ho messo un interruttore, o ne ho una scatola, diciamo, per di derivazione per 220 volt per fare giusto i collegamenti e niente, neanche microfono amplificato. Sono a, come ben visto, sono a 5 cm dal microfono, perché se mi allontano, vabbè, logicamente, non ho un microfono amplificato, però se va bene lasciamo questa, eh. Vai di nuovo, Robè. Alla grande, ma ci hai aiutato come segnale? No, sto uscendo con... Bugiardo! Anzi, bugia, 14 watt, Robè. Non sono aiutato e non ho messo l'amplificatore perché non sapevo come andava questa radio, quindi sono in incognito, poi domani magari attaccherò l'RM, quello che hai visto tu, o il 550 e niente, però adesso sono 14 watt della radio, proprio tirata a secca. Oh, c'è un segnalone, Tino invece? Io sono con 10 watt, ma 10 watt veramente, se vuoi te lo aumento, adesso lo portiamo un pochino più su, vediamo un po' se sale, ma sale ora. Qua stai arrivando a fondo scala, tutti e due, ti ho attenuato di 20 dB e di 9 più V. Allora Roberto, questo è il 450, E l'altra che radio era? Sentivo le parole leggermente fruscio sotto. Sì, perché quello raccoglie anche quando mia moglie cucina col fornetto a microonde. No, no, adesso un'altra, va bene la radio, era bella anche l'altra, però questa è leggermente meglio. Questa è un po' più medio alta, l'altra medio bassa. Abbiamo cercato di fare un compromesso, perché magari in banda non te ne accorgi quando cambio radio. L'altra è l'FT950 e K, l'altra un pochino più ti bastona. No, già spingono tutti e due. Capino, no, infatti ho detto, se sta uscendo con 14 watt è una bomba. Sì, robè, non avrei motivo di dirti una bugia. Sto utilizzando, sta addirittura ha il coperchio, diciamo, lo chassis superiore smontato, perché la sto provando, ho detto magari se non va devo toccare qualche trimmer. No, 14 watt, ho aumentato solo il trimmer in FM, ho aumentato solo il trimmer dell'FM, è fatta qualche, ho preso l'oscilloscopio da azienda, è fatta giusto qualche modifica in trasmissione, basta, più questo diodo, ed eccola qua, sta scaldando, scalda, è bella, emana un po' di calore, però sta, è tirata a secca. Magari no, il segnale non è questo granché, però la radio dovrebbe essere buona, almeno quest'amico mi ha detto, questo tecnico mi ha detto prova su quella radio, prova questo diodo e poi vedi un po' come va, o la tieni o la butti. Ma scherzi, guarda, quando gli vai in accoppiata quello giallo, ne vedi salire morti da sottoterra. La serie Presidente è sempre state radio spettacolari, sia come trasmissione che ricezione, veramente grandi radio, poi gli americani ci hanno sempre insegnato nei baracchini, nella fattorico. Il 44 lo puoi usare, Gavi, per sentirlo? Momentaneamente no, Robè, perché devo staccare l'antenna e poi visto come ho qua e mi dà un po' di disagio momentaneamente, magari domani sera mi fa uno squillo e ci mettiamo d'accordo. O aspetti un paio di minuti che stacco l'antenna dal Lincoln e ti faccio sentire il 440, però deve scaldare. Non c'è problema, non ti preoccupare, un'altra volta lo facciamo sentire, ero solo curioso, però ne avremo tempo per sentirlo. Tiro di nuovo a te. Piazzo, tanto già si trattiene Roberto. E un attimo, giusto quanto ci metti a farlo scaldare. 5 minuti di stand by che poi, io già l'hai visto, io l'ho acceso e sta andando. E allora Robè, cosa mi racconti, tutto bene? Sì, diciamo, non ci lamentiamo, dai, devo essere positivi in tutte le cose, se ti lamenti è peggio, tanto non cambia niente, non ti cambia la filosofia, dai. Va bene, tu cosa stiamo costruendo? Ho visto ogni tanto qualche immagine, cosa stai buttando in terra? No, vabbè, noi stiamo facendo la nuova condotta, no, lì a Lubagno. Praticamente ti spiego, tutti i tubi che c'erano sottoterra sono fatti in cemento, no? Però i vertici tipo, che ne so, la discesa da 45 gradi, il cambiamento di discesa è stata fatta 50 anni fa, è stata fatta in ferro, quindi cosa stanno temendo? Stanno temendo che questo ferro, con l'andare del tempo, si sia lesionato, si sia, e quindi magari potrebbe partire, perché è una condotta da 1600 di grandezza, quindi è abbastanza grande, 1,60 m stiamo parlando, di altezza da terra, quindi 1,60 m per 1,60 m porta tanta acqua. Quindi cosa stanno facendo? stanno utilizzando praticamente i tubi in cemento, come tubo camicia si chiama, nel senso che ci mettono altri tubi dentro, però in vetroresina, un nuovo materiale che stanno utilizzando ultimamente tutte le condotte, anziché da 160 lo stanno facendo da 140, e noi stiamo rifacendo tutti i vertici però con acciaio inox, capito? Quindi dobbiamo praticamente togliere tutte le parti dove ci sono i vertici, cambiare, sostituirlo e via andando, andando e finendo la condotta. Momentaneamente la città è alimentata con un tubo da 500, 600 anziché da 1600, capito? Questo è quanto. Ah, questa diventa Sassari, quindi? Sassari, Castelsardo, Lubagno, Porto Torres, Sentino e via dintorni. È l'acqua che c'è, che porta al Colinas praticamente. Fondamentale quindi come alimentazione, cavolo, un tubo da 1600, una bestia, ci sta un cristiano dentro. E allora, tu non ci crederai, ci sono quelli quelli che stanno collaborando con noi, ce n'è uno che ci passa giusto giusto, e serve per andare a vedere se, per dire, i tubi sono messi bene. E occhio che non se ne dimenticano qualcuno dentro di quelli piccoletti, dici, va a entrare un attimino e lo perdi di vista. Eccomi qua. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, Robe, questo è 4,40. Questo spinge di più, ma anche l'altro, però devo dire l'altro è più naturale, la modulare. Questa è da combattimento, da battaglia, bella potente. Sì, considera che l'ho appena acceso, ho cambiato l'antenna e niente. Questo qua è col mic... Ah no, aspetta, scusami, ho il processore inserito. Adesso è senza processore, dovrebbe essere più naturale. Sì, ma forse devi abbassare appena il livello microfonico. Abbassare un po' il livello microfonico, abbassare un po' il livello microfonico, vediamo un pochino, lo portiamo a... Dai, quello del microfono, è a mezzogiorno, eccolo qua. Adesso sei tu, perfetta. A me mi si è abbassato. Come ti? Appena appena si è abbassato a me. No, adesso perché era leggermente troppo amplificata, secondo me stava un po' distorcendo, adesso lo sento perfetto. Tu pensa che io sono il processore inserito, figurati. E anche questo c'è il processore inserito. Se aspettate un secondo, commuto il 4,40 e mi dite cosa cambia da uno all'altro. E questo, ti ripeto, non è la prima volta che lo uso in questa banda in FM. Ma questo è il 2000? Questo è il 2000, sì. Adesso commuto l'antenna e ti attacco l'altro, il 44. Vai, che così faccio una comparazione con te e Gavino. Allora, tu sei fondo scala e Roberto è 9,20. Vabbè, io sto usando anche 80 watt. Sì. Cosa mi dici di quell'Incom? Lascia il mondo com'è. Io alzo appena appena che ti sei abbassato troppo. Metti come era prima. Mi sono abbassato. Ma stai scherzando in confronto all'Incom? Ma se sto usando 30 watt qua? No, di microfono. Ah, ok. Eccolo qua. Ok. Così è come quando sono entrato. Lascia così. Sì. Non lo so, questa radio la radio sta scaldando come un matto e sta impazzendo e devo mettergli, l'ho provata, gli devo mettere una ventola sopra, devo fare un buco allo chassis, però spinge come una, io mi vengo a ridere perché sta spingendo come una dannata. Guarda che in quella radio lì la modifica era stata già fatta sul quanto riguarda il watt. No, non ho toccato niente dei watt, non ho toccato niente, i watt sono rimasti, la LC è rimasta quella, anche la FM, però ho capito questo diodo che fare, poi tramite il manual service mi hanno detto di aumentare di, diciamo, con l'oscilloscopio qualche parametro però dicendo vabbè, gli metterò una ventola. Guardate se esce questa radio. Aspetta che abbasso io invece. Eccolo qua, è troppo alto di LC. Vai Robè, Questa è 4,40, è a piena potenza. Non per darti una martellata ai maroni, ma gradisco più quella di Garvino. No, dico rispetto all'altra, la TS2000 cosa cambia? C'è il processore inserito. Allora, qua sì che è inserito il processore, però sto guardando una cosa, vediamo se c'ho su questa, perché c'è un commutatore, non so se sta andando tutto bene, come sono troppo alto di livello microfonico, ditemi un po'. No, è più sempliciotta la radio, l'altra era più amplificata, più... per me che ce l'hai più. Sei presente che qua il microfono è a meno di uno, posso sollevare tantissimo. Scusa, allora fa la cortesia, mettilo almeno a 2,5. Guarda un po' adesso se è cambiato qualcosa. No. Non è cambiato niente? No. Esatto, allora lo sai cos'è qua? Qua è il microfono che non sta amplificando. Devo cambiare il microfono, aspetta che cambio il microfono. Secondo te, Avi? Nel livello microfonico non è cambiato, però la radio è molto più robè. Ti porta a una modulazione molto più naturale, molto meglio del qua, a mio parere. Poi gli esperti ti diranno, però quando ti sentiranno, però questa qua è molto più veritiera del 2000, molto, guarda, neanche a fianco, amplifica un pochino, NFM qua sei il top. Adesso ho cambiato microfono, cosa è successo? Ma lo vedi? Sì. Quello non era amplificato, il microfono stava amplificando. Ma lo vedi che ti ho tirato una martellata ai maroni di nuovo? Troppo forte è questa? Potresti anche leggermente abbassarla, ma io un consiglio, ma tu ce l'hai di vizio, cazzo Roberto, tu ce l'hai di vizio. Tu hai il vizio di parlare molto velocemente, ma non perché è un trovato di fatto, eh. La parlantina mia è maledetta. Lo so. Però in radio ti dà fastidio. Lasciala così com'è, con l'amplificazione, e poi la parlantina vedi un po' tu, veditela continuo. Secondo me il livello di amplificazione così va bene, almeno a quanto mi riguarda. Come pilotaggio come si roba? Qua gli sarà tutta la potenza la radio. Ma puoi abbassare. Giusto un confronto. Prova a metterla, io sto pilotando il 440 con 30 watt. Prova a metterla a 30. E la lancetta in modulazione rimane al limite del segnale 9, prima del rosso. Aspetta che lo abbassiamo. Mettiamolo, adesso siamo una ventina. Io sto pilotando con 30 watt, rimane proprio nel 9. Questo sono esattamente poco più di 20, dai. Senti che radio ti, con pochi watt. Sì, vabbè. Così è 10, è migliorato. Aspetta che abbasso anch'io. Guarda, così sono senza lecci, addirittura sono a 20 watt. Adesso tolgo il processore, guardate questo passaggio, processore inserito, processore disinserito, 27105, processore inserito. Secondo me devi lasciare il processore, lo devi lasciare, Rob. Sì, anche per me, anche perché ti butta giù in cantina. Fate immaginare, guarda. Comunque il TS2000 non è così schifosa la radio, dai. Ma scherzi. Meglio, io preferisco questa qua, Tino, poi non so tu, però io come dinamica di emissione io preferisco molto più questa. Quella là rimane un po' più impastata sulle basse, robe. Magari il microfono, non lo so che microfono sto utilizzando là, però questa rimane molto più dinamica, ha una dinamica molto più una decina di dB, molto più che va dai 900, dai 900 al 2000, questa qua domina. Cappa, c'è qualcuno che vuole entrare? Mi è arrivata una portante spaventosa. Ci stiamo spiando. Vabbè, il canale è aperto, E Tino che sta facendo le prove. No, e che prove faccio con te? No. Tu sei molto dietro di me in confronto a me e Roberto. Comunque Tino, sei 9 più 60 attenuato di 20 dB, se no mi spacchi lo speaker. E ho 20 watt, Questo è il 450. No, no, guarda, che non meraviglia. Microfono cosa c'hai di lì tu? Io? La linea, dell'MC. K. Questo è l'MC60 lo stesso. L'unica cosa che mi cambia il colore, l'alimentatore, è la colonia, già lo sai. Ma la colonia lo sai perché poi non l'ho fatto lo scambio, Tino? Non te l'avevo detto? No, poi ti sei nascosto, che ho detto, ma forse Roberto non ne vuole più fare, ma non sapevo il perché. No, lo so alla fine, perché con la colonnina che ho io, la colonnina di linea del TS2000, non ci sta niente col 440, però la colonnina di linea, infatti ha detto... Visto che c'è il TS2000, diciamo la radio principale che utilizzo più di tutti, mettendogli l'altra colonnina nel 440 ci sta bene, però se dovessi mettere la fianca al TS2000 non andava bene. Ma figurati, ma stai scherzando, a me niente di, anzi a me che me l'ha detto forse l'Andrea, che volevi fare lo scambio, ho detto vabbè se la vuole, però non c'è problema. E vabbè, già non succede niente, già funziona uguale, tanto cambia solo il colore. Sì, infatti, qua non è un problema, ma tanto tu pensa che io ho il PS50 è grigio toppo, il 450 è boh, che colore è, non so neanche che colore è, grigio canale fucile, boh, non lo so che colore è, capito? E la colonnina è lo stesso, differente, non me ne frega niente. L'importante poi, ciò che conta è quello che senti. Assolutamente, vai Gabri. No, Gabri, scusate, sta cambiando il presidente ora. Comunque l'ho visto quel presidente, cavolo, ha fatto un bel lavoro Gavino, dice eccellente, dice c'era qualche problemino, mi ha fatto vedere la scheda, ho visto c'era qualche componente un pochettino strano, qualche saldatura mal fatta, si è appentato, allora rimandiamo le radio a aggiustare, Mettino. Sì, così alleggeriamo qualche un altro. Davvero, adesso non so se sta ascoltando Fabrizio, gli ore vabbè al lavoro lui, però ne ha tirato tante castagne dal fuoco un sacco di gente. Sì, sì, lo so, e figurati, a me parecchie volte, ma forse anche quella, anzi senza forse, anche quella radio lì ha avuto, perché me l'ha data Walter, però non andava, aspetta che abbasso questo, però non andava come doveva andare, allora l'ho data Fabrizio, me l'ha rimessa in sesto, io gli avevo dato anche un Galaxy Pluto da vetrina, sempre preso da Walter, che però era, boh, forse era, ci avranno passato 50.000 cacciavitti, sino a che è riuscito a metterlo a posto, durava 3 giorni, credimi Robert, 3 giorni, andava benissimo, dopodiché ogni tanto si rompeva un componente, me lo cambiavo, me lo rimettevo, ma altri 3 giorni, un'altra, allora ho detto, asco a fare una cosa, tienitela, te la usi come pezzi di ricambio, oppure aggiusta, te la fai dove vuoi, l'ho regalata, perché tanto era una cosa che componenti nuovi andavano a sopprimere quelli vecchi, quindi si rompevano i vecchi, capito? E poi quando inizia tutta una catena di lì, inizia un condensatore, poi una resistente a gas caldo, alla fine o le cambi tutte e ne o sbagli, se no non esci di testa. Così 9,40, poca gente te lo ripara perché dice ne aggiunsi uno, poi si rompe l'altro, fa quello e quella, e molti preferiscono non ripararlo. Gabri, di nuovo a te se ci sei. Sì, sì, sì, sono di nuovo cambiato con il Lincoln. Cosa ti ho detto? Ho detto se Gabino non risponde vuol dire che è stato un Lincoln. Eia. Sì, sì, sì, sì, no, scusatemi, ma non devo provarla. Dai, come va? Se scalda, se si brucia, se fa qualcosa. Cosa stai toccando, Gavri? Di colpo ti abbassi di segnale. Niente, vedete perché sono passato a Lincoln? Vedete perché sono passato a Lincoln? Perché voglio vedere queste cose, devo vedere queste cose. Sono adesso vediamo di portante fissa e vediamo se lo fa. Non fa niente. Posso vediamo un po'. Allora, vediamo un pochino, eccolo qua. Perfetto. Dai, non mi sta facendo il difetto. Il pulsantino della portante. Dai, questo amico mi ha consigliato bene. Vai ti. Aspetta che ti mando una foto e ti dico in che condizione sono io qua. Me lo posso immaginare col ragazzo, con i ragazzi lì, come si è messo. Quindi Robè, diciamo ok, sta radio la lasciamo per la 27 o cosa? Cosa mi dici? Una bestiolina, quello è un investimento, quando te la devi vendere trovi sempre qualcuno che l'apprezza, veramente una bella radio, grande modulatore, grande soprattutto ricevitore, e poi non c'è bisogno che te lo dica, te lo sta dicendo anche il dittino, sta uscendo alla grande. E lì in poi invece è Saturnecco, quello lì. Allora, da precisare una cosa, che io questa radio qua non la darò mai, non la darò mai, io, perché questo è un gentil dono che mi ha fatto il Tino, quindi mi ha detto tienila, e quindi è in stazione per quello, ho voluto fare questa modifica. L'hai vista tu aperta, quindi non ti sto dicendo fesserie, gli ho rifatto tutte le saldature, gli ho finito che erano le 2:15 l'altra notte, quindi gli ho rifatto tutto, gli ho cambiato, e poi stamattina ho preso questo diodo che oltretutto non l'ho neanche comprato, che me l'ha regalato questo tecnico che mi ha detto prova in quella radio che ci va questo al posto di quello, te lo dirò poi in verticale, siate gattino. Guarda, perché mi ha detto se fai bene prendi l'oscilloscopio, infatti mi ha prestato l'oscilloscopio, mi ha prestato il frequenzimetro, mi ha detto fai alcune tarature, scarica il manuale utente, che io ce l'avevo già scaricato per fare alcuni setup. E niente, e mi ha detto fai queste, aumenta di tot, diminuisci di tot, qua mi ha dato i parametri e ho fatto quello che mi ha detto, ed ecco qua questa è in stazione. Vai Tino, ci sei? Sì, ti ho mandato una foto per vedere le condizioni in cui sono io adesso, fra un po' devo andare a mangiare, quindi ci devo sbattere fuori. Yes. E va bene. Robè, così sono i fatti, sono esperimenti che non sono di mia natura. Almeno non sono nati da me, sono nati da prove dagli anni 90. Vai di nuovo, Robè. No, e poi gente che magari le pratica, conosce le... dà le giuste indicazioni e va tutto bene, così non fai danno, sempre bene. Ti stavo dicendo qualcosa che mi è passato per la mente, quando mi viene, te lo dico, stavo parlando di radio, adesso mi è venuto fuori il discorso. Vai tutti non è. Sì. Scusami Tim, mi hai chiesto del Saturn, il Saturn, ho finito la parte del ricevitore, ora devo iniziare la parte del trasmettitore. Devo prima di tutto misurare i transistor dalla, diciamo, delle tensioni, che non siano in corto, devo fare un paio di misurazioni, poi in base a quello che mi serve devo la pista, e le piste dei circuiti come ti ho detto c'erano due piste da rifare, le ho rifatte, e poi però devo dissaldare i transistor e vedere un po' che valori mi danno. Devo vedere un po' che valori mi danno, ma su quello non c'è fretta. Della trasmissione non mi importa, lo devo smontare e devo capire più o meno. Perché è un lavoro un po' delicato, quello della trasmissione è un lavoro un po' delicato, devo capire come prendere un paio di misurazioni e capire come agire. Vai Tino. Bene, sono contento che è andata a buon uso e buon fine, così almeno abbiamo un'altra radio da far andare. Va bene. mi è venuto in mente Tino e Gavino quello che stavo dicendo, mi ha detto stamattina un amico che era lì, non so se l'hanno già portata, la stazione Soldante ad aria calda, 30 euro. Non l'hai vista l'altro giorno, me l'ho presa giovedì, Robè. Te la sei presa? Certo, me l'ho presa perché io ho la Tecno Tecnoil, cosa è? È una stazione saldante un po' complessa. E la uso tra casa e lavoro, quindi non mi andava a fare questo procedimento e sono andato giovedì e me l'ho presa alla Lidl, tanto per quello che devo fare a casa. Ho detto per quello che devo fare a casa non è necessario avere una super stazione saldante. Ti devo dire Robè, 39 euro, se le trovi prendila, perché è veramente, ma veramente affidabile. Tutta la manutenzione di questo apparecchio l'ho fatta con quella lì. Lo stagno che danno in dotazione prendilo e buttalo, perché quello lì devi buttarlo. Però lei in sé è dai, confronto qualità-prezzo, hai più qualità che prezzo, veramente. Non so perché l'abbiano messa a quel prezzo lì, però è veramente... non mi posso lamentare. La metti, io saldo a 335 gradi. A 3,35 mi sono trovato veramente bene, dai 2 secondi e lo stagno fonde bene, lo stagno buono però con tutte le precauzioni, flussante, queste cose qua, però 3,35, io saldo a 3,35, 2 secondi dopo che il pezzo è pulito e lì va a fare la fusione in modo omogeneo. Buona, prendila, vai ti. Guarda, se ne avessi avuto modo di usarla l'avrei presa anche io, ma io già, giusto per saldare 2 PL, ma no, va bene così. Ragazzi, io devo dare mangiare ai cani, se vi volete trattenere magari ci facciamo una chiacchierata anche dopo che ho dato a mangiare, prenderò circa una decina di minuti. Vabbè, io adesso interrompo, dai. No, io non riprendo. Volevo dire, Tino, ma scusa Tino, Gavino, c'è anche l'indicatore digitale della temperatura? Sì, ha l'indicatore digitale della temperatura sia per la salda, per il saldatore che per il getto d'aria calda, ha due indicatori digitali, Robe. Quindi prendila perché poi lei ha da una parte posteriore all'accensione generale, poi puoi decidere se accendere o la parte della calda o la parte del saldatore, e quindi è completa. Robè, se ti capita prendila perché è buona, buona, almeno per quello che facciamo noi, uso amatoriale, uso non intensivo, va bene, poi se la usi 12 ore al giorno non va bene, però se la usi come possiamo utilizzare noi l'uso amatoriale è ottima, l'importante è tenere sempre la punta pulita, lei lavora alla grande, Robè, prendila. Capo, adesso domani vado, io ce l'ho, vabbè, in ufficio abbiamo ancora professionale, stazione saldante, costava una barca di soldi, l'ho presa a poco peso perché un amico aveva laboratorio, poi ha dismesso tutto, l'ho presa, c'ha diverse postazioni, aspiratore, saldatore, eccetera, doppi saldatori, c'è un sacco di roba, però mica me la porta a casa. È una di quelle piccoline, sempre della Lidl, che c'era la temperatura, la regolavi con un potenziometro, quando devi saltare un PL qualcosa l'ho utilizzata, però se mi stai dicendo ad aria calda e funziona bene, cavolo, se c'è domani, tanto ce l'ho vicino al lavoro, mi avvicino 5 minuti, vado e la prendo al volo. Non pensavo fosse così sofisticata. Prendila Robè, per 39 euro prendila. 39 euro, se tu guardi compri un saldatore da schifo, un Monacor compri per 39 euro, che ti sale a 200 gradi e poi va a disperdere il calore dopo un minuto e ti brucia lo stagno. Quella lì non lo fa, Robè. Quindi devi guardare anche queste cose. Uno dice sì, ma 39 euro, è speso 39 euro. Confronto qualità-prezzo, hai più qualità che prezzo. Robè, io lo ti ripeto, 335 gradi faccio saldature da paura. Poi vabbè, con l'altra hai. Con quella che è un capannone, mi sembra che cosa era venuta intorno agli 800, mi sembra 800-850 euro. Però robè, a ogni che poi il la graduazione è sempre quella, magari quella da 850 euro che dopo 20 secondi, 20, 30 secondi, 40 secondi che non la utilizzi va un po' a diminuire per non fare quello, quell'altro, e ci sta perché è per uso intensivo. Però quella, se tu devi prendere, saldarti un PL, fare una saldatura a un componente, la usi quanto? 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, prendi e la spegni, basta, sono per uso occasionale. E va bene, noi non la utilizziamo per uso intensivo, robè, 12 ore sempre accesa, saldando, togliendo, almeno per quanto mi riguarda. Poi se tu la utilizzi così non è indicata, però per uso occasionale quella lì è ottima. Cappa, dai, lasciamo andare Artino, lo salutiamo, se no ci pesta. Saluto anche a te, Gavino, dai, anche io interrompo, dai, che domani noi ci alziamo presto, vabbè, puoi lasciare anche voi, dai. Vi saluto a tutti e due, grazie del questione, grazie delle informazioni. Domani se la trovo la Lidl, vado e me la compro. Ciao a tutti, saluto anche chi fosse in ascolto qua al canale Cose 12. Ciao. Ciao Robè. Quindi mi confermi, la lascio questa? Assolutamente. Perfetto, grazie Roberto, ciao, buonanotte e grazie per essere entrato, siamo sempre qua noi. 27.105, frequenza modulata, Tino? Sì, ho finito adesso, ciao Robè, ciao, sentiamo, entro ogni tanto qua, vediamo se siamo. Volentieri, ciao di nuovo, 7.3. Ciao. Finito da mangiare il cane, ho visto che stavate facendo così, quindi ne ho approfittato. No, gli stavo dicendo di questa stazione saldante, che per il prezzo che la stanno vendendo è ottima, ottima, quindi alcune cose anche se si utilizzano saltuariamente, bisogna prendere l'occasione, deve avere, come si dice, la cavia di chi la compra e ti dice guarda, comprala che va bene. Malandando uno fa da cavia come il topo, uno fa da cavia, spende 39 euro, ma le malandando te li rimborsano, vai a casa, la provi in fretta e malandando te rimborsano i soldi dopo 3 giorni, mi sa, dopo 3 o 5 giorni. E va bene così. No, io l'ho presa, mi sono trovato benissimo. Non è come tutte le cose, non è paragonabile a una stazione saldante di qualità ad uso intensivo, però occasionalmente per saldare qualcosa, per farti una riparazione, la puoi tenere anche quella un'oretta, due ore accesa e ti soddisfa, niente da invidiare, in quei tempi a stazioni saldanti di ottima qualità, vai. Non avete in dubbio, ma tu queste cose le utilizzi, io è raro che le utilizzo, giusto per fare qualche saldatura così, ti ripeto, PL, qualche così intestare qualche volto, intestato qualche capsula microfonica oppure le connessioni classiche del Midram, quelle quattro cagate che uno si mette a fare, ma niente di che, dai. No, certo, io lo stesso, io se trovo, per dire, la Lidl perché l'avevamo detto, mi tratta un abitatore quello buono, lo volevo sempre prendere, poi mi è sfuggito di mano, devo aspettare la prossima volta. Io, dai, mi sono andato e ho preso questa roba qua, questa stazione, poi anche quella pulivapor che ho preso a batteria per fare questi lavoretti per l'asciugatrice, per pulirmi il motore della macchina e queste cose qua. Ho comprata la Lido, la pulivapor l'ho pagata $29.90 mi sa, compresa di batteria, quindi sono cose che per €40 uno purtroppo fa il sacrificio. Intanto se la sera vai al bar e ti spendi quelle 15-20 euro a sera, io al bar non ci vado, mi conservo i soldi e mi compro la roba utile. Purtroppo io dice, ma io non ce la faccio, non è... però la sera arrivi a rubare, se ti impuli di birra, io non ci vado e mi compro questa roba qua. Non è il tuo caso, tu magari non sei appassionato, tu magari se mettessero un microfono ogni settimana ti compreresti un microfono ogni settimana. Ah sì, quello sì. No vabbè, ma io lo stesso non sono così, a me non frega niente del bar. Sì, se andiamo, non è un problema. Però vedi, ultimamente sto notando molto che la gente, io parlo dei colleghi di lavoro, guarda molto quello che fanno gli altri. A me cosa quanto mi rompe le scatole? Cioè io non noto che se tu, per dire, la mattina paghi il caffè una volta meno di me, a me non c'è niente, io quando vado fa il caffè, poi c'è a pagare. Però l'altro, ma il tuo niente a pagare, cioè alla fine diventa anche brutta la cosa. C'è questo qua che guarda, guarda tutto, ma nel senso che adesso tocca a quello, adesso tocca a quell'altro, stamattina e poi adesso tocca a quello. Sono arrivati, siccome noi molte volte siamo in tre, oppure molte volte siamo in nove, no? Stamattina eravamo in nove, sono entrato al bar lì dove, vicino a casa, al rifornitore, no? Robert, fai caffè e dimmi la tua base. Ma proprio senza stare a pensarci neanche minimamente. Cazzo, ma vorrei proprio, mica non tocca a te, cazzo, mi affitto a me. Chi so faccio i dolci, di? A chi so faccio i dolci? Io ti posso dire una cosa. Avrei pensato per me, perché se io una volta, cosa può essere, ogni nove, una volta ogni nove, io non mi posso permettere di pagare, fai che finché escono nove caffè sono 10 euro, 11 euro, no? Però se escono caffè pasta, inizia ad essere, invece di 9 euro inizia ad essere 18 euro, anzi 25 euro, e io non me lo posso permettere, quindi avrei evitato. Io, per come sono fatto io, se mi avrebbe detto una cosa del genere, avrei detto, beh, fede una cosa allora, beh, dov'è? Oggi non tocca a te, non è obbligatorio che tocca a me o tocca a te. E io quando posso vi rubavo, quando non posso di rubaghi. Compreso a chi non sei meviglioso e non sei nemmeno, non vai nemmeno con un contratto con te che appiglia, oggi non tocca a te. E se voglio pagare pago io, se no ti rubaghi. E proprio ho detto papale. No, ma nel senso che questo qua per dire, io non te lo dico, ma scusa, il tuo pensiero non è che deve stare a condizionare gli altri. Io voglio prendere il caffè, tu mi prendi, se tu non mi vuoi, prendi, mi accompagni al bar, non te ne scendo dal furgone, io vado, mi prendo il caffè, mi scendo dal furgone e andiamo. Ma io non ti sto consigliando a prenderti il caffè. Ma quello là se lo beve, per dire, fa riferimento a un altro, no? Ma quello là se lo beve da noi, dove c'è il container da noi, perché l'abbiamo pagato tutti quanti e lui se lo beve. E noi non c'è niente qua, io lo voglio adesso, lo prendo adesso. Là non ne bevo perché non ho contribuito, ma non ho contribuito per le cazzate vostre, ho detto, non perché a me mi pesa mettere 3 euro cazzo alla settimana, perché tu stai a guardare quello che si beve quello, quello che si... e per forza perché io metto i soldi se lo bevono gli altri. Infatti io per evitare queste cose qua non contribuisco, me lo porto a casa, mi bevo 4, 5, 6 caffè che voglio io, perché me li porto io di tasca mia, di casa mia, e nessuno mi può dire niente a me, o sbaglio? No, no, no, ma c'è ragione. Io mi sarei su, ma gli avrei dato giusto un giorno di tempo. Io per queste cose non sono molto alla mano. Io se posso il caffè lo pago, ne pago anche 20 caffè se posso, se voglio e se mi fa piacere. Altrimenti io caffè non te ne pago, ma non ti pago neanche un bicchiere d'acqua. Proprio non è che mi metto problemi. Addirittura ci sono state situazioni a lavoro di gente che è venuta esterna. Ho detto, sceso dal furgone, ho fatto io vado a prendere un caffè e vengo anche io. Io mi ho pagato il mio, lui si è pagato il suo. No, non ti devo niente. Ma non ti devo niente. Poi è nata anche una mezza amicizia, però non mi devo sentire in obbligo, ma non sono per... Non è il fatto dei 20 euro, attenzione. È il fatto che non ti devo niente, mi segui? Quindi se non ti devo niente tu hai poco da farmi i conti in tasca, perché altrimenti nella sione ne abbisiamo burumari e ciccia. A chi ne abbisiamo mari? A chi è da voi? Io non ti devo nulla, sono sempre i soliti discorsi. Non te lo devo, non te lo devo, io quello che devo è alla mia famiglia, non a nessuno. Quindi posso ricambiare una cortesia con un amico, con mio fratello, con i miei genitori, però quello che conta è la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, poi gli altri per me. Sì, io ci tengo a tutto, però non devo e credo di non dovere niente a nessuno. Per il resto i caffè se li vogliono se li prendono. E se io mi devo fermare a mangiare un piatto di pasta e tu mi dici no, ma io mi fermo, non è che ciò in chi io ho necessità. Non hai la possibilità, va bene, non c'è problema. Lo facciamo, non ci sono problemi. Però non mi devo e non ti devi sentire in obbligo poi di essere in debito con me o io con te. Capito come la penso? No, ma per quello no, poi... non so, l'hai sentito poco fa? Poco fa l'hai sentito neanche tu. Io ho il volume alto, ma non mi sento proprio. Cosa te? Gianni, da poco fa io non mi sento proprio, eppure faccio il volume a palla. Provende, adesso che ha trovato la frequenza sta provando, aspetta. Entra io.